con l'aeroplano, per la gita, per la data, con i friends e con la fidanzata. Io vado via, vado via di qui, ci rivediamo l'altro lunedì. Io vado via, io vado via di qui, ci rivediamo, ci rivediamo. Io parto presto, valigia lampo, si viaggia da soli, si gira in tanti nomade finché campo. C'ho due soldi, prenoto il volo low cost, il gran cambusa, gran risparmio. Non sono ricco, ma non mi tieni nei tempi, nei ritmi, nei soliti giri, nei vostri trip, nei nostri deliri. Un passatempo super violento, con micro e dischi rendo questo momento super fresco, pregio, funky, trattenimento. Così mi chiamano in Sicilia, mi chiamano in Sardegna, mi chiamano giù a Napoli, mi aspettano in Salento, Bologna, Torino, Reggio e Pescara. Provengo da Milano, città a me cara, dovunque arrivo la vita costa meno cara. Sono casalingo e amo la vita ciabattara, ma se c'è festa arrivo subito nella tua area. Io me ne vado e vado col treno, con l'aeroplano, per la gita, per la data, con i friends e con la fidanzata. Io vado via, vado via di qui, ci rivediamo l'altro lunedì. Io vado via, io vado via di qui, ci rivediamo, ci rivediamo. Io parto presto, valigia lampo, si viaggia da soli, si gira in tanti nomade finché campo. C'ho due soldi, prenoto il volo low cost, poi gran cambusa, gran risparmio. Non sono ricco, ma sono anni che giro ed ho la dipendenza. Conosco treni, aerei, navi, caselli e benze, sono sempre pronto al cambio di residenza, per lidi più esotici o paesi nordici, dove rispetto all'Italia ti manca la nostra cucina, la nostra cantina, ma il cervello della gente mena all'antica. C'è più lavoro e tutela per giovani e anziani. Io vado a Barcellona, Londra, Berlino, Amsterdam e parto domani. Vado da fratelli lontani, son casalingo, amo i ritmi umani, ma se c'è festa arrivo subito, se mi chiami. Io me ne vado e vado col treno, con l'aeroplano, per la gita, per la data, con i friends e con la fidanzata. Io vado via, vado via di qui, ci rivediamo l'altro lunedì. Io vado via, io vado via di qui, ci rivediamo, ci rivediamo. Sai com'è, a Garadò, a Garadò, a Garadò, a tutta la gente che si vuole spostare. Oh yeah, a Garadò, a Garadò, a Garadò. Io me ne vado e vado col treno, con l'aeroplano, per la gita, per la data, con i friends e con la fidanzata. Io vado via, vado via di qui, ci rivediamo l'altro lunedì. Io vado via, io vado via di qui, ci rivediamo, ci rivediamo.